eccoci qua, buongiorno e buon sabato cari ascoltatori, ben ritrovati con il buongiorno del weekend di Radio 24. Stiamo insieme fino alle 10 con Si può fare, tra pochissimo una rassegna stampa, un'occhiata quindi ai giornali di oggi che ci accompagnerà verso il giornale radio delle 8. Poi riprenderemo insieme anche a Carlo naturalmente con i nostri approfondimenti, sempre a caccia di buone notizie sul confine tra il Si può fare. Oggi partiamo dallo sciopero dei dipendenti dei supermercati. Tutti noi facciamo questa esperienza più o meno spesso, entriamo a contatto con queste persone che generalmente sono anche molto disponibili, molto gentili. Chissà se dietro questa disponibilità, questa gentilezza c'è quello che è stato descritto anche in un film recentemente, La legge del mercato, un film francese premiato a Cannes, dove i supermercati vengono descritti però un po' come un posto dove si vive in mezzo a un ambiente un po' da caserma. Non è questo forse il motivo dello sciopero di oggi. Oggi lo sciopero è semplicemente per gli 85 euro del contratto che aspetta di essere rinnovato per 500.000 circa dipendenti di uno dei settori dei supermercati, perché qualche tempo fa il contratto è stato rinnovato per la parte più ampia dei dipendenti delle grandi distribuzioni. Ma insomma, partiremo da qua, cercheremo di capire che succede nei supermercati italiani, ma questo dopo il GR delle 8. Adesso cominciamo con la rassegna stampa, vai! Oh, e poi anche i nostri contatti, se volete interagire con noi, la pagina Facebook Si può fare trattino Radio 24, l'account è chiocciola Si può fare 24, il mio chiocciola Ale Maurizi. Poi c'è anche il numero per gli SMS, naturalmente 349-238-6666. Si potrà intervenire in diretta, ma dopo il GR delle 8. Adesso, come detto, giornali. Ampio spazio naturalmente al voto di sfiducia bocciato nei confronti del ministro Maria Elena Boschi. Poi si parla anche d'Europa con queste frecciatine tra Renzi e la Merkel, vedremo se c'è della sostanza o se è stata muina, gioco delle parti tra il premier italiano e la cancelliera tedesca. E poi anche un po' di notizie per quanto riguarda l'estero, si vota in Spagna domani e poi l'accordo ONU per quanto riguarda la Siria. Cominciamo con la sfiducia, no alla sfiducia, Boschi lascerei con accuse vere, questo è il titolo scelto dal Corriere della Sera. Vediamo anche giudizi sul discorso di Maria Elena Boschi. La carta della famiglia orgogliosa di mio padre è un uomo per bene, si è sbagliato, pagherà. Solo una donna poteva fare un discorso così forte e delicato insieme. Il commento positivo in questo caso di un membro del partito della Boschi, Sandra Zampa, prodiana, però anche chi, come per esempio il Movimento 5 Stelle, è stato molto duro, si lascia andare in un apprezzamento. Marta Grande non è stata politicamente efficace, dice, però è stata empatica. La Boschi che ha parlato del padre, io amo mio padre, una persona per bene, viene da una famiglia umile, è figlio di contadini e si faceva 5 km a piedi e 40 in treno per andare a lavorare. Molti di noi avranno pensato, che c'entra tutto questo? Cioè, nel senso, allora si possono risolvere così tante situazioni, basta dire, ma sai, mio papà era operaio, non avevano la lavatrice in casa, adesso sai, c'ho il conto corrente in rosso, però che ci vuoi fare? E infatti è la stessa conclusione a cui arriva per esempio anche Libero. Il titolo è Ecco il patrimonio Boschi protetto dal salva papà, ma l'editoriale di Maurizio Belpietro inizia proprio così: se uno nasce contadino è per definizione esente da critiche, se da ragazzo per andare a scuola faceva all'andata 5 km a piedi e 5 al ritorno è per forza uno che non può aver contribuito a far andare in malora una banca, in effetti la domanda è lecita, è giustissima. La Boschi ha utilizzato questo argomento per buttarla sul personale, ma è ovvio che è un po' debole come scusa, è un po' deboluccia, dai. Però riprendiamo l'argomento da un altro punto di vista, perché per esempio dentro Forza Italia i forzisti che non hanno votato la mozione di sfiducia, che invece è stata votata dalla Lega e da Fratelli d'Italia, si è rotto un po' il fronte del centrodestra. Ma questo è un incidente di percorso, perché Forza Italia è percorsa da mille altre fratture. L'ira di Romani su Brunetta. C'è anche lo scontro tra i due portavoce alla Camera e al Senato. Maria Elena Boschi è stata bravissima, dice Paolo Romani. Secondo lui è stata bravissima la Boschi. Avete sentito il discorso? Ah, bisogna ammettere che è stata bravissima. Io l'ho trovata bravissima. Mentre Brunetta era infuriato. E quindi insomma, c'è una visione completamente diversa dentro Forza Italia tra diciamo i falchi e le colombe. Ancora una volta si propone questa divisione, tanto che per esempio Repubblica scrive: lo strappo di Berlusconi, licenziato Brunetta, basta, il capo non è lui, al suo posto arriverebbe Mara Carfagna. E allora qualche retroscena: Mara, il gruppo ci sta sfuggendo di mano, per la guida avrei pensato a te al posto di Renato Brunetta, che ne pensi? Silvio Berlusconi la sua scelta la comunica così alla diretta interessata. Flashback, siamo giovedì a pranzo a Palazzo Grazioli con l'ex ministra, ci sono anche altri senatori presenti, tra cui Maurizio Gasparri. Problema qual è? È che Forza Italia sta perdendo pezzi, sta perdendo colpi sia alla Camera che al Senato. Ci sono i verdiniani che si sono portati via un po' di nomi, un po' di voti, insomma, un po' di esponenti di Forza Italia. Anche qua sarebbe interessante capire quanto sia un gioco delle parti, quanto no, quanto i verdiniani si stiano incaricando di tenere in piedi il governo Renzi quando serve, perché tutto sommato alla fine della legislatura non converrebbe forse nemmeno a Berlusconi, che in questo momento non ha un potenziale elettorale elevatissimo, oppure quanto invece lo scontro sia reale. Fatto sta che Berlusconi avrebbe chiesto alla Carfagna, che avrebbe risposto: se tu me lo chiedi sono disponibile, di fare il portavoce appunto di Forza Italia alla Camera per arginare anche l'uscita di alcuni esponenti. Altri nomi sono dati in uscita, scrive il Corriere, non solo Renata Polverini alla Camera e Enrico Piccinelli al Senato, entrambi diretti verso l'ala di Verdini, ma altri si apprestano a seguirli a ruote. I più pessimisti parlano di una decina di pedine in ballo nei due gruppi, che si sono già ridotti a 54 deputati e a 42 senatori. Insomma, il soccorso di Mara Carfagna a Berlusconi nel ruolo, insomma, di capogruppo alla Camera di Forza Italia. Allora, che altro? Ma insomma, in tutto questo, sempre restando sui temi di politica interna, potremmo dare un'occhiata al sondaggio del fine settimana di Nando Pagnoncelli, sempre sul Corriere. I 5 Stelle a 2 punti dal Partito Democratico, Di Maio insegue il Premier. Succede in pratica che in questa situazione non facilissima per il governo, quest'ultima accelerazione data dall'operazione di salvataggio delle 4 banche in extremis, diciamo, avendo lasciato andare, diciamo, uscire dalla stalla i buoi, come si dice, essendo intervenuti dopo con questo provvedimento a 3,6 miliardi di euro, è un fatto che non viene giudicato molto positivamente dagli italiani, evidentemente. Vabbè, ma non è questo, diciamo, l'oggetto del sondaggio. Il sondaggio è il classico sondaggio sul stato di salute dei partiti. Allora, il Partito Democratico è al 31%, il Movimento 5 Stelle al 29%, Forza Italia al 14%, e torniamo al discorso di prima, non è un certo un momento nel quale a Berlusconi possa convenire andare ad elezioni. La Lega Nord sarebbe addirittura in leggero calo, dal 13,5% dell'inizio di quest'anno è scesa al 10,8%, stiamo parlando di sondaggi, ma quello che può colpisce di più è il fatto della caduta di Matteo Renzi, che era al 47% diciamo delle preferenze, del gradimento tra i potenziali elettori all'inizio dell'anno, dal 47% è sceso al 38%. Salvini è tutto sommato stabile, era al 35, adesso è al 32, ha perso qualche punto anche lui. Invece Di Maio, da quando è in pista, da settembre-ottobre di quest'anno, c'è stata l'investitura di Grillo, poi insomma una marcia indietro, ma insomma sostanzialmente al momento è lui il candidato, sarebbe lui il candidato premier alle prossime elezioni per il Movimento 5 Stelle, è al 36%, a soli 2 punti quindi da Matteo Renzi. L'altra cosa interessante è cosa succederebbe al ballottaggio con questi, diciamo, date queste preferenze ai partiti al primo turno, al ballottaggio con l'Italicum, sapete, i due partiti più votati andrebbero al ballottaggio. E ci sono due scenari: un ballottaggio tra il PD e il Movimento 5 Stelle, e un ballottaggio tra il PD e un centrodestra unito. Nel secondo caso il PD vincerebbe il ballottaggio contro il centrodestra, per quanto riunito Fratelli d'Italia, Forza Italia e Lega, 54-8 contro 45-2. Se invece il ballottaggio fosse ci fosse uno scenario diverso, cioè il Partito Democratico contro il Movimento 5 Stelle, sarebbe il movimento fondato da Beppe Grillo a vincere con il 52-5 contro il 47,5% del PD. Sono sondaggi, sono scenari, ma sono anche cose, insomma, campanelle d'allarme, sono indicazioni per tutti i partiti. Il Repubblica sceglie di titolare invece su un altro argomento, che è quello europeo. Renzi attacca la Merkel, scontro sulle banche, non potete dire che la Germania ha dato il sangue per l'Europa, divergenze anche sui migranti e sanzioni a Mosca, l'ira di Bruxelles è come Berlusconi. Ci torniamo tra un attimo dopo il traffico. Perché notizie più costose, più fresche, più narrate. E allora eravamo su Repubblica, che appunto decide di titolare sullo scontro, insomma, tra Renzi e la Merkel, tra il premier italiano e la cancelliera tedesca a Bruxelles, in questo vertice nel quale appunto Renzi ha attaccato la Merkel. Non è vero che donate il sangue per l'Europa, il titolo, il premier al Consiglio europeo, pongo solo quesiti alla Germania, e la cancelliera che ha cercato di minimizzare opinioni diverse. Questa volta Renzi è stato un po' più duro che in passato, quando invece si è poi sempre allineato, possiamo dirlo tranquillamente. Basta pensare a come è stata gestita dall'Italia la vicenda della Grecia, sulla quale inizialmente eravamo incendiari, siamo finiti pompieri, allineati con la Germania. Questa volta almeno a parole c'è stato un diverbio che adesso viene forse ricomposto con la promessa della Merkel, che dice: vienimi a trovare a Berlino, parliamo con calma di tutti questi temi. Già sì, però non è che parlando si risolvano le questioni se non si cambiano le posizioni. Lo stesso Jean-Claude Juncker scrive Repubblica: presidente della Commissione, da vecchia volpe dei tavoli europei, fissa subito un incontro a Roma con Renzi per i primi dell'anno. Quali sono le parole che hanno scatenato, si fa per dire, l'ira della Merkel? Quando Renzi ha detto, ha toccato il tema energetico. Vorrei capire la logica di quanto sta accadendo, ha detto Renzi. Volete rinnovare automaticamente le sanzioni contro la Russia, e parliamo di sicurezza energetica e di diversificazione delle fonti. Poi però la Germania raddoppia il Nord Stream, passando per il Mar Baltico, quando a luglio avete bloccato il South Stream, progetto che vedeva anche la nostra compagnia di bandiera Eni impegnata, un progetto bloccato dalla Germania perché bypassava l'Ucraina e non garantiva la diversificazione. Un'uscita esplicita contro la cancelliera, seguita da una battuta di Renzi che ha detto: tra un po' mi fanno socio onorario del gruppo dei paesi contrari al Nord Stream 2. Insomma, quando si toccano questo tipo di temi di interessi, evidentemente le sensibilità sono più forti. Andiamo sul Sole 24 Ore. Banche: Merkel sfida la Banca Centrale Europea, no a garanzie europee sui depositi. Renzi critica Berlino, non diteci che date sangue all'Europa. Dunque il titolo è su questo. Poi però c'è spazio anche per tornare sulla vicenda del salvabanche, perché l'altro titolo è: Visco Cantone, collaborazione tra il presidente dell'autorità anticorruzione e il governatore di Banca Italia, Visco, colloquio sugli arbitrati affidati all'ANAC. Cioè, questo dopo la decisione appunto del governo di l'annuncio di Renzi di affidare all'ANAC, un annuncio un po' a sorpresa, perché l'ANAC è l'autorità diciamo, anticorruzione. Qua stiamo parlando dell'arbitrato sui risparmiatori, su chi ha sottoscritto queste obbligazioni nelle banche coinvolte sul salvabanche, e adesso si annuncia questa collaborazione con la Banca d'Italia. Banca Italia e ANAC collaboreranno sulle controversie dei risparmiatori colpiti dagli effetti del decreto salvabanche. Dopo la decisione di Renzi di affidare all'ANAC la gestione degli arbitrati, telefonata ieri, questa è la notizia, tra Visco e Cantone, colloquio telefonico anche tra il capo dello Stato Mattarella e il presidente della Banca Centrale Europea Mario Draghi. Non so quanto possa tranquillizzare l'intervento della Banca d'Italia nella gestione degli arbitrati, cioè di quanto poi verrà restituito a chi rispetto ai soldi messi sul tappeto dal governo per venire incontro ai risparmiatori, circa 100.000 persone che hanno perso circa 300 milioni di euro. Appunto, non so quanto possa tranquillizzare l'intervento della Banca d'Italia, che secondo alcune associazioni dei consumatori è addirittura delle responsabilità dirette, tanto è vero che ci sono degli esposti contro la Banca d'Italia proprio per non aver informato il mercato, i consumatori, i risparmiatori su quanto stava accadendo, dopo aver invece avuto un colloquio diretto con le banche. La Banca d'Italia, insomma, in sostanza era a corrente di quello che sta succedendo in quelle banche. Dunque c'è spazio anche per esempio la notizia che riguarda l'INPS e il presidente dell'INPS Boeri, che ieri ha detto è un grave errore bocciare la busta arancione. Stiamo parlando della trasparenza per quanto riguarda i futuri pensionati. Purtroppo il Parlamento non ha approvato l'emendamento che ci renderebbe possibile l'avvio agli italiani della busta arancione che avevamo chiesto. Non costava nulla alle casse dello Stato, in quanto le risorse le abbiamo, dobbiamo solo spostarle tra diversi capitoli di spesa. Il presidente dell'INPS Boeri è amareggiato per la bocciatura anche da parte delle Camere della busta arancione, un documento, il nome è stato scelto dall'omologo svedese, un documento che permette, o meglio permetterebbe, al contribuente di sapere quanto ragionevolmente può aspettarsi sul suo futuro assegno pensionistico. È un fatto molto molto importante. In passato i governi, ma anche i presidenti dell'INPS, non avevano mai voluto fare questo atto di trasparenza o rendere facile, possibile per i futuri pensionati l'accesso a questa informazione, perché si temevano reazioni negative da parte dei contribuenti, perché è chiaro, le pensioni in ballo sono molto basse. E invece, ribadisce Boeri, noi la scelta di informare l'abbiamo fatta, ma non veniamo messi nella condizione di attuarla fino in fondo. Infatti lui dice: non abbiamo la possibilità oggi di poter mandare a casa coloro che non hanno preso il PIN per accedere sul sito web, non abbiamo la possibilità di mandare a casa la famosa busta arancione se non in quantitativi al di sotto delle necessità. E questo è lo stop delle Camere alla trasparenza sull'INPS chiesta da Renzi. Un'altra notizia riguarda, abbiamo detto in apertura, oggi c'è lo sciopero dei dipendenti dei supermercati, ne parla Corriere in prima pagina. Cassiere al super, i nuovi operai, Dario Di Vico: oggi i lavoratori della grande distribuzione sciopereranno in tutta Italia per il rinnovo del contratto di lavoro. Le cassiere dei supermercati sono diventate i cipputi dell'era moderna? È la domanda. Cipputi è la storica figura di Altan, che ritraeva l'operaio, no? Con la tuta da operaio. Cipputi ormai è sinonimo di chi lavora in fabbrica, sempre meno persone, ma ci sono ancora molti. Le cassiere sono al 90% donne e secondo i dati che fornisce la CGIL l'età media sta salendo da 40 verso 50 anni, scrive Di Vico. Molte di loro hanno lo stesso lavoro da 25 anni, più grande è il supermercato dove operano, meno c'è la possibilità di ruotare su altre mansioni. Questo è uno dei punti, perché i dipendenti chiederebbero anche di poter ruotare, di non stare sempre alla cassa. Lo stipendio è intorno ai 1.100 euro. Alcune imprese si sforzano di essere fedeli a un programma plurisettimanale, ma c'è anche chi al bisogno richiama i dipendenti da casa nei giorni straordinari, di aperture straordinarie, per esempio nei giorni di festa. I big stanno investendo molto sulla tecnologia per automatizzare le casse con i lettori automatici, ma li usano solo il 10% dei clienti. Insomma, questo è il tema sul tappeto. per quanto riguarda lo sciopero dei dipendenti dei supermercati di oggi. Ne parleremo anche noi dopo il GR delle 8. Adesso ci fermiamo, c'è appunto il GR, noi ci ritroviamo subito dopo, a più tardi, ciao. Il segnale orario vi è offerto da Stufe e Caldaie Termorossi, una promessa di calore per un amore di casa. In questi giorni di festa, regalatevi tutta l'informazione, l'intrattenimento e la passione di Radio 24. Buon ascolto e buon Natale. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Uptown funky up. Uptown funky up. Cause Uptown funk don't give it to you. Cause Uptown funk don't give it to you. Don't believe me, just watch. Eccoci qua, buongiorno di nuovo da Alessio Maurizi e da Carlo Gabardini, buongiorno a tutti e buon sabato. Cari ascoltatori, eccoci qua, vi aspettiamo all'800 24 00 24 con le vostre buone notizie di questa settimana e con quello che volete naturalmente. Ma è meglio se sono buone notizie, boh, diciamo, certo. Ci occupiamo anzi di buone pratiche più che di buone notizie, sì. Perché le notizie possono essere anche cattive, ma il modo in cui si risolvono o in cui si trovano delle uscite o delle vie d'uscita. Tra l'altro oggi abbiamo una bella chicca perché in chiusura, proprio in chiusura, sentiremo di nuovo la Associazione dei Comuni Virtuosi che ha aperto un tesseramento straordinario anche per i cittadini, cioè chiunque può fare una piccola iscrizione, donazione. Quindi una piccola donazione, dare una mano a questi comuni che fanno le cose, abbiamo raccontate tante volte, mirabolanti, bellissime. Anche chi fa parte di un comune per niente virtuoso, quindi sì, anzi, nella speranza che il proprio comune diventi virtuoso. È un po' come quando compri le quote di inquinamento, no? Cioè per il diritto ad inquinare lo paghi. Allora in questo caso, se stai in un comune che non è virtuoso, almeno dai la quota ai comuni virtuosi. Ah, e la dai a loro, dovrebbe essere che i comuni virtuosi invece raccogliessero delle quote per far diventare virtuosi i comuni che non sono virtuosi. Anche questo si dovrebbe fare. 800 24 00 24. Allora, cari ascoltatori, anche oggi come sempre mettiamo in palio due biglietti e un catalogo della mostra di Gauguin, siamo ancora a Gauguin, credo di sì, il MUDEC di Milano, una bellissima mostra. Oggi però vi chiediamo di essere un po' attivi, un po' partecipativi. È più difficile più oggi, difficile. È più difficile per tutti. Dovete trovare delle valide giustificazioni per così scrollarvi di dorso problemi, peccati che avete commesso, sensi di colpa, un po' come ha fatto il ministro Boschi. Partiamo dalla notizia. Perché ieri Boschi ha detto, diceva, insomma, mio padre era figlio di contadini, faceva 5 chilometri a piedi per andare a scuola, quindi è una brava persona, non può aver truffato. E a noi ci ha fatto un po' ridere questa giustificazione, nel senso che non sappiamo, non parliamo del padre della Boschi, ma ovviamente questa non può essere una giustificazione, nel senso che non è che basta fare del jogging per lavarsi la coscienza o avere una figlia che dice è proprio una brava persona. Quindi so che per esempio magari voi avete un problema col conto in banca, siete in rosso, potete provare andare al direttore di banca e dirgli sì vabbè, ma noi sai quando eravamo poveri avevamo il bagno sul pianerottolo di casa, non avevamo la lavatrice. Questo è pietismo. Sì. Giusto, ma secondo me è anche proprio un po' fuori luogo, nel senso di dire ma come, ma non è possibile che abbiamo il conto in rosso, guardi in casa mia non mangiamo carboidrati. Esatto, cosa di questo genere. Quindi voi chiamateci all'800 24 0024, confessatevi se avete un problema, se avete commesso un peccato, se avete tradito la moglie. Noi vi aiutiamo a trovare delle valide giustificazioni, per esempio scavando nell'albero genealogico, trovando anche degli avi altrui. 800 24 0024. Tra poco però invece entriamo nei supermercati, nei supermercati dove oggi si sciopera. Diamo il buongiorno a Silvia Ebben, capogruppo di Domenica No Grazie e del Trentino Alto Adige. Adesso spieghiamo di che si tratta. Buongiorno Silvia. Buongiorno. Buongiorno. Allora, Domenica, buongiorno. No Grazie è un movimento di commesse, di cassiere, di dipendenti dei supermercati, degli ipermercati, dei negozi italiani che, insomma, avete preso questa questione di lavorare la domenica un po' come un manifesto, no? dei commessi nell'anno 2015. Silvia, intanto poi parleremo anche di questo, perché sotto le vacanze ci sono sempre i giorni di festa nei quali bisogna lavorare, Santo Stefano, Natale, è così, sì, no? Accade. Sì, esatto, esatto. Anche quest'anno. Però intanto sullo sciopero di oggi tu non sei coinvolta, vero? Perché il tuo contratto non è tra quelli che devono essere rinnovati. Allora, io direttamente non sono coinvolta perché lavoro per una multinazionale, però non della grande distribuzione. Pertanto io, ok, non parlo direttamente coinvolta dallo sciopero, ma comunque essendo la capogruppo del movimento Domenica No Grazie Trentino Alto Adige, parlo per tutti i miei colleghi che invece ne sono coinvolti. Ecco, giusto. Infatti, perché oggi si sciopera? Perché io ho letto sul giornale che c'è questo rinnovo del contratto che manca da 2 anni. Sì, esatto, il rinnovo del contratto nel commercio manca da 2 anni. E attualmente tutte le bozze, diciamo, che sono state discusse sono a sfavore del dipendente, semplicemente perché vogliono ampliare l'orario lavorativo, vogliono toglierci ancora le maggiorazioni, sempre per il discorso del lavoro domenicale. Questo vogliono togliere le maggiorazioni, perché il lavoro domenicale è uno dei nodi, no? Cioè, uno dice: io, esatto, lavoro pure la domenica, però magari pagato di più, ma datemi qualcosina. Esatto. E invece? Invece con il decreto Monti, Salva Italia di Monti, praticamente è stato un po' equiparato il giorno domenicale, la domenica, a tutti gli altri giorni. C'è sempre colpa di Monti alla fine, eh? Colpa di Monti, purtroppo. Mi dispiace doverlo dire, però il decreto Salva Italia di Monti, per il discorso della liberalizzazione nel commercio, è stato un disastro. Certo, salva l'Italia, ma uccide il weekend. Ha detto che la domenica diventava un giorno come un altro per le aperture. Esatto, quindi, diciamo, ha dato la possibilità ai titolari dei supermercati di dire: ok, siccome un giorno come un altro, non vi devo la maggiorazione. È questo? Ecco, è questo proprio quello che sta succedendo in tantissimi posti di lavoro, e neanche in modo, posso dire, autorizzato, neanche legale, perché al momento con il rinnovo del contratto ancora in firma, che non è stato firmato, tutto questo non è legale, però molti datori di lavoro, molte aziende lo stanno già facendo, stanno già, fra virgolette, fregando i dipendenti, dicendo: ragazzi, però dal momento che la liberalizzazione ha equiparato la domenica a un qualsiasi martedì, io non vi devo pagare la maggiorazione. Certo. Quindi ci sono tantissimi colleghi che lavorano la domenica e prendono uno stipendio come se fosse un martedì. Quindi il malumore è anche per questo, non è solo un discorso dobbiamo lavorare la domenica, però, che due scatole. Ma mi scusi, forse la mia è una domanda stupida, ma quello che non capisco è, nel senso che equiparare la domenica a un martedì, se uno, diciamo, lavora 5 giorni alla settimana, è un conto. Io quello che mi chiedo è se non viene pagato in più se uno fa un giorno in più, perché secondo me ci può anche stare che sia equiparato, nel senso che, diciamo sempre, lo Stato è laico, quindi la domenica equivale a un martedì, però se uno lavora solo 5 giorni, se poi gli viene chiesto un giorno in più, a quel punto quel giorno è più pagato, perché, diciamo, si chiamano straordinari, giusto? È lo stesso discorso, anche gli straordinari vogliono essere, non dico cancellati, però con l'orario più ampio, fino a 48 ore la settimana in periodi di picco, che appunto sono proprio quelli prenatalizi e poi quelli dei saldi, i datori di lavoro avranno la possibilità di dire al dipendente: io non ti pago gli straordinari, sono ore che andrai a recuperare più avanti. Purtroppo ci sono molti colleghi che hanno dei monte ore allucinanti, anche di 300-400 ore. Spiegatemi voi come si possono recuperare 400 ore di straordinari in un anno solare. Non è possibile. No, ma poi, fra l'altro, sono due cose diverse. Carlo, che secondo me, essendo un freelance, non hai quelle cose dei contratti, quindi magari non ti è capitato. Però in tanti contratti di lavoro succede, per esempio anche nel nostro, i giornalisti, che la domenica si viene pagati un po' di più, non se fai un sesto giorno, anche se sono 5 giorni su 7, però è una piccola compensazione per quello che viene stato ritenuto essere un sacrificio, cioè lavorare la domenica. E siccome c'è per alcuni contratti, giustamente questi dipendenti altrimenti vorrebbero che fosse. No, anche per alcune persone in realtà preferiscono lavorare la domenica, sì, perché uno dice così: ho lunedì e martedì libero, quando gli altri lavorano, io trovo i negozi aperti e vado a comprare le mie cose. Quindi certo, non però è detto posso che... intervenire su questo argomento. Certo. Il 90% buono, e non sto esagerando, dei dipendenti del commercio sono donne. È vero. Sono è vero. Madri. Sì. Quindi è anche un discorso un po' più ampio da fare del nostro diritto di essere donne e madri. Certo, di stare a casa con i figli, molto giusto, nel senso che quello è il giorno in cui loro non vanno a scuola. Ecco. Giusto. Quindi io mi ritrovo magari a casa il mercoledì mattina, perché a turno posso stare a casa, o anche mercoledì tutto il giorno, mio figlio e mio marito sono all'asilo e al lavoro. Invece io sono a lavoro la domenica e loro sono a casa. Sono quelle situazioni un po' complicate. Esatto. Mettiamo anche che uno, non so, una famiglia separata, una donna sola con un figlio, se la domenica deve andare a lavorare, dove lo piazza questo figlio? Questo anche certo, sono certo. problemi. Ma senti, voglio chiedere un'altra cosa, Silvia. Certo. È vero che la maggior parte di voi, insomma, che lavorano nella GDO, preferiscono stare alla cassa e non ai banconi, perché invece i datori di lavoro dicono che si potrebbe fare più carriera diciamo tra le merci, imparando anche aspetti relativi, che ne so, a distinguere un salame da un prosciutto? Allora, per qualsiasi tipo di lavoro naturalmente serve una qualifica, non è che un salumiere diventa un salumiere dall'oggi al domani. Il lavoro come cassiera sì, può sembrare un lavoro più semplice, perché molti lo intendono come la persona che si siede alla cassa e sta lì, bipa la spesa e non sa fare altro. No, ma anche forse per il fatto di stare a contatto con le persone, magari viene visto come una cosa più interessante, no? Io penso che tante colleghe lo preferiscano ad altre tipologie di lavoro, anche perché è fra tutti forse quello più meno pesante. Meno pesante. Perché senti, magari la mortadella comunque ha un peso, 22 kg, sollevarlo, fare rifornimento, poi certo ognuno è portato per un lavoro come... Sì, beh certo, alla cassa uno sta lì seduto tranquillo, forse viene visto come un lavoro più conto. Beh, tranquillo mica tanto, no, perché la cassa... Ci esatto. Un manuale devi... da ti tocca da beccarti tutte le, diciamo, dire, le isterie di ognuno, no? le frustrazioni di ogni persona, sì, le piccole amarezze. Senti, il momento del conto. L'hai visto il film La legge del mercato, questo film francese che è stato premiato a Cannes quest'anno, che parla anche... Personalmente non l'ho visto. Sì. No, è un film nel quale, con Vincent Landon, io l'ho visto, insomma, l'ambiente del supermercato viene descritto un po' come un ambiente da caserma, con delle regole rigide, dove bisogna denunciare il vicino se ha rubato un buono sconto, o anche semplicemente se ha fatto male i conti, cose di questo genere. Sì, purtroppo è così anche nella realtà, non è solo un film, perché i film non, 90% prendono comunque spunto dalla realtà, dal vissuto. Io conosco moltissime realtà anche nostre italiane, dove le commesse, le cassiere, le colleghe vengono aizzate l'una contro l'altra, vengono invogliate con dei rinnovi di contratto, perché la maggior parte di noi lavora con contratti a termine, e questi rinnovi vengono molto spesso collegati a delle piccole, come posso dire, spiate, delazioni. Esatto. Non ti dico i messaggi che stanno arrivando anche su WhatsApp, ma se avete un lavoro allora non rompete puntini puntini, arrivano anche cose di questo genere, te lo dico perché certo, non è così, però non, cioè, è nessun problema, non è che avere un lavoro può voler questo. Dire dover subire qualunque cosa. Anzi, sembra che il momento esattamente sottolinea questo, che un po' usano questo come grimaldello, siccome c'è meno lavoro, chi ha lavoro deve stare zitto e buono e lavorare come uno schiavo, non mi sembra una buona giustificazione. Quando poi queste persone si ritroveranno con avere dei figli che non troveranno lavoro, avranno dei figli che dovranno accettare qualsiasi condizione per lavorare. Questo è quello che è successo negli ultimi anni, ma ci tengo a ripetere che noi siamo contro questa liberalizzazione così come è stata concepita, perché ci era stata venduta come la medicina contro la crisi, ricordatevi, per favore. Ma quindi, scusami, che Silvia, aveva detto che aprendo la domenica avrebbe creato posti di lavoro. Invece è successo il contrario in molti casi. Chi già era dipendente in un negozio si è visto solo spalmare le ore su un giorno in più la settimana, guadagna meno di quello che prendeva prima. Sì. Beh, se, se la realtà è quella che ci descrivi tu, cioè di straordinari che si allungano, allora è vero quello, la, la speranza era, era diversa, i conti chissà, magari li faremo più avanti, ma volevo chiederti Silvia, tornando al discorso di prima, no, del, dell'ambiente che c'è nei supermercati, quindi le commesse, gli addetti che normalmente sono molto gentili nei confronti del cliente, cioè è tutta una facciata, perché poi... Certo, ci sono addirittura persone che hanno contratti, sì? Lo posso confermare personalmente, sì? Li ho visti, dove viene imposto alle commesse il sorriso, vengono riprese dai capi area, capi direttori, capi settore, cioè filmate, non proprio sorridono. Ah no, riprese nel senso vengono rimproverate, sì, certo, se non sorridono. Ma secondo, certo, te è giusto che un commesso debba essere sorridente o è una pretesa assurda? Allora, il lavoro a contatto con il pubblico è un lavoro molto difficile che molti sottovalutano, perché uno pensa, vabbè, il commesso cosa sarà mai? Sta al caldo d'inverno, sta al fresco d'estate, piega solo delle magliette oppure mette solo a posto gli scaffali. Beh, sì, perché sembra un mondo però accadorato, nessuno, no? Pensa questo. No, però sembra un mondo dove tutto funziona, sei in mezzo a, ai consumi, al commercio, sei, cioè, è un lavoro apparentemente anche comodo, ma in realtà, Silvia, non è così, stavi dicendo. Cioè, no, io vi sto solo esponendo come sono le cose, sì, nel nostro settore, che non sono rose e fiori come in tutti gli altri settori, per l'amor di Dio. Quello che voglio dire è che molto spesso il lavoro nel commercio, proprio essendo popolato da lavoratrici donne, mm-hmm, è un mondo molto competitivo, primo, e soprattutto molto escludente. Appena una donna, a parte le donne in età fertile, fanno difficoltà a trovare lavoro praticamente in qualsiasi settore. Nel commercio è ancora un po' meno, come posso dire, escludente la cosa. Ma comunque le lavoratrici donne si ritrovano sempre comunque a dover fare i conti con... Bisognerebbe che assumessero donna un po' di uomini allora in questi film, per stemperare un po' queste situazioni tra donne. Perché... Ma però nel senso che secondo me è molto... io penso che quando si tratta di rapporto con il pubblico, la cortesia in realtà faccia parte del lavoro. Poi sono d'accordo, certo, sono d'accordissimo con lei che leggere in un contratto l'obbligo di sorriso diventa, certo, molto difficile. Quindi io quello che mi chiedo è, da parte del lavoratore, cioè come si potrebbe scrivere questa norma? Perché da parte del datore di lavoro c'è bisogno che il rapporto col pubblico comprenda anche la cortesia, perché sennò si ha una cassiera che invece manda a quel paese tutti i clienti non tornano, è molto semplice. Certo, ma lei non troverà mai una cassiera che manda a quel paese tutti i clienti. No, beh, però queste si trovano, trovano. Sì, però sono dei casi molto rari, nel senso che a volte bisogna anche pensare a... che noi siamo esseri umani, ma certo, ma è chiarissimo, cioè, questo, abbiamo una famiglia noi a casa, abbiamo dei problemi, che comunque sia, no, posso dire, io nel mio mondo lavorativo sono sempre riuscita a fare una netta distinzione, e bisogna appunto esserci portati, di dire, quando varco la soglia del negozio, tutto quello che è un mio problema personale resta fuori, riflettere sul mio lavoro. Però ci sono anche delle situazioni dove veramente diventa difficile, se si è soprattutto vessati comunque dai datori di lavoro. Dipende anche in quel caso lì come uno viene trattato sul lavoro. Certo, certo. Poi ovviamente noi facciamo discorsi generali, ma poi sì, conta caso per caso, azienda per azienda, il capo reparto bravo piuttosto che quello meno bravo. Silvia, un'ultima cosa velocissima prima di salutarci. Sì? Lavorerai, ci sono dei giorni di festa, tanto per certo, farci capire, no? Quando? Io ho lavorato tutti i festivi. Allora, io non mi fermo dal primo di novembre. Sì. Ho lavorato tutte le domeniche e lavorerò anche il 26 di dicembre. Cioè, ma non ti fermi, nel senso, hai avuto dei giorni liberi in settimana? Certo, ho avuto dei giorni compensativi, ma quando sono a casa io, mio marito lavora. Quindi ok, comunque, da quando non lo vedi tuo marito? Dall'estate praticamente? Più o meno. Da quando sei andato in vacanza al mare, vabbè. No, ci rivedremo a Natale con mio marito. A Natale, quindi non lavori? Questa è una notizia. No, il 25 no. Va bene. Bene. Allora buon Natale. Buon Natale. Sì. Auguri. Grazie mille. Auguri anche a voi. Grazie a lei. Grazie Silvia Ebben, capogruppo di Domenica Nograzie del Trentino Alto Adige. Una chiacchierata su come si sta nei supermercati. Ci sono anche gli edicolanti, perché uno ci scrive su WhatsApp e dice, ma noi cosa dovremmo dire? Loro almeno hanno stipendio fisso. Noi prendiamo 20 cent ogni copia venduta. E se non vendiamo giornali, sono guai. E tra l'altro la domenica è un giorno fondamentale ovviamente per le edicole, perché sì, fuori dalla messa si compra il giornale, quindi la domenica tengono tutte aperte. Cari ascoltatori, vi aspettiamo per parlare della vostra esperienza nei supermercati, per commentare l'intervista con Silvia, ma anche per confessatevi, così come ha fatto ieri Maria Elena Boschi. Se avete un peccato, se avete un problema, noi vi aiutiamo a trovare una valida giustificazione. Non ha confessato. No, però ha detto, in pratica ha ammesso, ci sapete, mio padre era figlio di contadini, è una brava persona, cioè ha messo sul piatto della bilancia questa una giustificazione. Quindi se avete un problema, noi vi aiutiamo a trovare una valida giustificazione. Chiamateci all'800 24 0024 tra poco. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Eccoci qua, ci sono un po' di messaggi che commentano l'intervista di Silvia Ebben per quanto riguarda i supermercati. Buongiorno, la signora sta raccontando la verità che è analoga in tutti i settori del lavoro, commercio, industria. I lavoratori, grazie al fatto che siamo in crisi, sono totalmente schiavizzati e prevaricati. La signora ha ragione, nel supermercato che frequento le commesse sono sempre sull'orlo di una crisi di nervi, non hanno tempo neppure per fare la pipì e poi fanno turni allucinanti. Facciamo chiudere la domenica. L'Omi 56 manda un sms. Io mi diverto sempre a scambiare qualche parola con le commesse, così di cortesia, di gentilezza, perché insomma, si sta lì, ci si trova di fronte, mi sembra anche giusto, forse serve anche a loro, anche se magari sono stanche, esauste, però vedo che in genere gradiscono. C'è anche chi dice, ma di che si lamenta che io sono disoccupato, ho 61 anni, scusate, mi fa schifo, però metterla su questo piano non va bene, non si può fare il confronto, siccome uno ha un lavoro allora deve subire qualunque cosa, no, oppure è molto pericoloso prenderla da questo punto di vista, no, anche perché poi molti di questi che mandano questi messaggi, secondo me, se ci fosse da alzarsi alle 6 di mattina per andare in fabbrica o lavorare la domenica al negozio, forse non ci andrebbero. Questo ovviamente stare a casa, non... a lamentarsi va, cioè, sempre è più bene, facile, sempre non, dico so, tutti, non dico tutti, è importante che chi non ha il lavoro nel momento che avrà il lavoro troverà un lavoro in qualche modo tutelato e non un lavoro selvaggio da schiavo, se no, se questa è la deriva, diventa molto pericoloso. Abbiamo Fabio che ci chiama da Milano, buongiorno. Buongiorno. Niente, volevo fare una considerazione proprio su quello che ha detto la signorina, su questi decreti liberalizzazioni che trovo assurdi, perché a mio avviso bisogna smetterla di pensare che se c'è una persona che alle 11 di sera abbia desiderio di comprarsi una camicia, il titolare di un'azienda piccola, un'azienda che se va in crisi non viene aiutata da nessuno, perché le grosse aziende hanno sempre la cassa integrazione per i loro dipendenti e tutto il resto, ma un piccolo commerciante non ha nessuna possibilità, un negozio debba stare aperto 0-24, perché c'è qualcuno che alla sera alle 11 decide di comprarsi una camicia o un paio di mutande. Dobbiamo anche cercare di rispettare. No, però scusa Fabio, non è così, cioè non è che è solo la questione della camicia. Messa così sembra che uno ha voglia di comprarsi una camicia al mezzanotte è un cretino. Ma c'è gente che magari lavora fino alle 10 di sera e prima non può fare la spesa. Può succedere anche questo, per esempio, ferrovieri, infermieri, no? Ma dall'altra parte uno deve sempre pensare di vedere dall'altra parte, se un'azienda non può permettersi di pagare e dei dipendenti 0-24, come fa a tenere aperto? Beh, non tiene aperto. Però non è che siccome se c'è un'azienda che non può pagare H24, no, allora nessuno può tenere. Allora scusate, sto parlando io, fatemi gentilmente finire. In che questa senso? Cosa la può fare. È un dialogo? Volevo finire il concetto. Questa cosa la può fare solo la grande distribuzione. Allora, sì. Ma dove sta il problema? Scusa Fabio, dove sta il problema? Il problema sta che le leggi vengono fatte solo per aiutare la grande distribuzione che uccide le piccole imprese. Questo è lampante. Quindi, voglio dire, quando nel 2006 Bersani ha distrutto tutti i negozi e tutte le attività commerciali liberalizzando, ha solo favorito la grande distribuzione. Scusa Fabio, ma tu ci vai a fare la spesa al supermercato poi o no? Dove certo, vai? Certo che ci vado. È quello il problema, perché se anche perché non ho alternative. Ma se nessuno ci andasse, però è questa la questione, nel senso che tu non compri niente la domenica? Non compri niente dopo le 19:30? Ho capito, ma nessuno muore di fame se il supermercato è chiuso alle 20. No, ma in un, mondo, in un altro mondo posso anche essere d'accordo, ma vedi, non è nemmeno se è chiuso alle 16 nessuno muore di fame. Non sono Monti e Bersani ad avere distrutto i piccoli negozi, è il mercato, sono nati delle grandi catene che hanno sfruttato diversamente il mercato. Questo non ci possiamo fare niente né io né te, per alcuni è un vantaggio, per altri è un problema, però di questo bisogna prendere atto. Fabio, grazie comunque per averci chiamato, noi dobbiamo dare la linea al traffico, torniamo tra pochissimo. 800 24 00 24. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Tu hai fatto l'albero di Natale? Assolutamente sì. Vero o finto? Finto. Anche tu? Finto, sì. Quindi noi non possiamo, non rientriamo nella statistica di che fine fanno gli alberi veri. Perché c'è anche questa questione qua. Sì, c'è quella e oppure quelli che comprano invece gli alberi che non hanno le radici, che sono veri ma non hanno le radici. No, quella è una cosa veramente allucinante. Non lo so, rivendono quelli lì mozzati sotto? Beh, in tutti quelli delle grandi città non è che l'albero gigante di Milano ha le radici sotto. No. E poi perdono tutti gli aghetti subito, sono praticamente già morti. No, un po' resistono, insomma. Io comunque... Plastica, ho scelto anch'io plastica. Un vecchio albero di Natale. A Este invece il comune adotta gli alberi di Natale per farli vivere dopo il Natale. Buongiorno al sindaco di Este, Giancarlo Piva. Buongiorno a voi, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Buongiorno. Ricicliamoli, così la città sarà più verde. Dove li mettete gli alberi? Ma abbiamo fatto una proposta perché ci siamo posti un problema, appunto, dove vanno a finire questi alberi che sono nelle nostre case, magari auspicabilmente almeno nelle case hanno la zolla perché sono alberi più piccoli, quindi magari la zolla ce l'hanno ancora, dove certo vengono messi? Allora ci siamo resi conto negli scorsi anni che magari vengono buttati in giro per i canali, vengono smaltiti in qualche modo, e qualcuno li pianta ma pochissimi, perché magari chi non ha un giardino non può piantare un pino, una dente. Triste però, certo, buttare un albero in un canale così. Vengono abbandonati negli autogrill, direi. Ecco, e quindi abbiamo detto, beh, perché non facciamo un parco di alberi di Natale? Allora la proposta che abbiamo lanciato ha questo slogan: dopo la festa il tuo albero resta. E quindi faremo la piantumazione degli alberi di Natale, che le famiglie che hanno scelto di avere un albero di Natale vero, anch'io ce l'ho di plastica da tanti anni, e quindi è sempre quello, è sempre quello e funziona benissimo, ma insomma se qualcuno vuole avere questa tradizione, dobbiamo cercare come amministrazioni locali di dire, beh, come affrontiamo questo problema. Molto giusto. Ma quindi avete fatto un unico parco dove piantumate tutti questi alberi? Sì, abbiamo un'area verde in un'area vicina, diciamo, alla zona artigianale industriale, che era solo un'area dove c'era un prato, dove ci sono delle panchine, insomma è un'area anche già attrezzata, e in quest'area abbiamo quindi ritenuto di piantumare appena passate le feste, durante la prima domenica ecologica, perché noi facciamo sempre una volta al mese la domenica ecologica, e quindi chiudiamo Piantate tutti questi alberi. Piantiamo tutti gli alberi. Ma la vera domanda è: con gli addobbi o senza addobbi li piantate? Insomma, senza addobbi, e anche speriamo che l'invito che facciamo alle famiglie è di rispettarli in questo mese che ospitano all'interno della loro casa un albero di Natale. In modo che arrivino sani, insomma, e non già deteriorati. Ma l'altra vera domanda è: ma l'anno successivo posso tornare nel campo a riprendermi il mio albero o no? Allora, qualcuno ci ha lanciato questi idea, da un punto di vista però della, del rispetto della pianta, se noi capiamo che una pianta del genere la prendiamo, la poi la piantumiamo E lasciamola in pace questa povera pianta, rispettiamola. Devo dirvi anche, per ad onor del vero, che qualcuno ci ha mandato una mail e ci ha detto: ma guardate, non è una cosa molto ecologica piantare in pianura padana, noi siamo nella zona sud della provincia, perché non è un habitat adatto degli abeti, no? Non è un habitat adatto, dovreste fare una convenzione con un comune della montagna e portarli a piantumare in montagna. Però diventa anche allora, tutto difficile. Diciamo che facciamo il possibile, non l'impossibile. Le cose Magari il sindaco potete fare un ricovero momentaneo in pianura, poi quando avete le forze li trasferite tutti in montagna. No, ma soprattutto potete promettere alla cittadinanza che l'anno successivo addobbererete voi tutti questi alberi che piantumate e si fa un unico bellissimo giardino di alberi di Natale per tutta la cittadinanza. Questo potrebbe essere una bella idea, in effetti, ma credo che anche l'immagine che daremo, siccome è un'area anche all'ingresso della città, insomma, è l'immagine della tutela e del rispetto della nostra natura. Noi sugli alberi siamo molto attenti, pensate che l'anno scorso noi ne abbiamo piantumati 5.000 con la nostra società municipalizzata che si occupa di rifiuti. Bravi. E adesso ne vogliamo piantare 5.000 all'anno. I nostri nati sono 150, quindi a questi 5.000 aggiungiamo 150 alberi per legge. I nuovi nati. Quelli per legge, ecco, sì. Vorremmo creare una cinturazione verde della città e anche questo quindi rientra all'interno degli obiettivi che ci siamo dati col piano di azione per l'energia sostenibile, il PAES, dove uno dei punti è proprio l'incentivazione della piantumazione. Dobbiamo sapere che un albero ci risparmia una tonnellata di CO2 in un anno. Certo. Dio sa quanto ne abbiamo bisogno adesso, in questo periodo, tra l'altro. Soprattutto a Milano, che ho visto che nel 2015 per tre mesi abbiamo superato i limiti di smog possibili. Sì. Cioè, e ce lo dicono adesso. Ne parliamo tra l'altro dopo con Luca Mercalli, climatologo. Grazie al sindaco di Este, grazie per essere stato con noi. E salviamo gli alberi di Natale tutti giustissimo insieme. Buona piantumazione. È bella questa cosa della cinturazione verde, molto. Me la vedo, la cittadina di 5.000 abitanti con questo muro di alberi intorno, anche in mezzo ne metteranno magari qualcuno. E ne hanno 5.000, più tutti gli alberi di Natale, più quelli delle nascite, complimenti a Est. Allora, c'è chi ci dice, ma perché volete attaccare la Boschi quando il senso delle parole riferite al padre era tutt'altro? Perché distorcere la realtà? Ma no, non è che vogliamo distorcere la realtà ognuno se la legge sui giornali come vuole, vogliamo solo sottolineare questo aspetto, che insomma dire mio papà faceva 5 chilometri per andare a scuola a piedi, era figlio di contadini, è una bella giustificazione, quindi noi vi proponiamo, la prendiamo. No, non vale come giustificazione, perché insomma ricordiamo anche il padre di Stalin era un artigiano, non mi sembra una grandissima giustificazione. La mamma di Hitler faceva la cameriera, per esempio. Però cari ascoltatori, chiamateci per confessare i vostri problemi, i vostri peccati, noi vi aiutiamo a trovare una valida giustificazione sfrucugliando il vostro albero genealogico. 800 24 00 24, in palio i biglietti e il catalogo della mostra di Gauguin al MUDEC di Milano. Ci sentiamo dopo il GR. Il segnale orario vi è offerto da Stufe e Caldaie Termorossi, una promessa di calore per un amore di casa. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Eccoci qua, cari ascoltatori, di nuovo ben ritrovati e buongiorno da Alessio Maurizi e da Carlo Gabardini. Buon sabato a tutti. Allora, intanto Milano Monterosa oggi sta venendo fuori un pochino di sole, ne sono molto contento perché perché tu volevi la pioggia per abbassare le polveri sottili. Hai assolutamente ragione. Come facciamo qua? Io purtroppo odio la pioggia, non mi piace proprio la pioggia, però capisco che c'è la necessità. A me, neanche a me piace, si starebbe benissimo, altro. Questo clima è meraviglioso, non piove, un'aria abbastanza Ma ci spiegherà il climatologo che non va bene per niente, vero, tutto questo. Però un pochino più, sì, è vero, ammetto la debolezza. Poi sotto Natale avere anche non la pioggia. Non te ne frega niente dello smog, va bene così. No, non mi permetterei intanto mai. Intanto però diamo il buongiorno a Luca Mercalli, climatologo. Buongiorno a tutti voi. Buongiorno. Buon sabato. Allora, intanto io qua ho davanti a me, fra l'altro non c'è la fonte di questa notizia, redazione, perché i dati confermano che il 2015 è stato l'anno più caldo di sempre nel mondo dal 1880, è vero? Sì, è vero, le fonti sono autorevolissime, sono il Servizio Meteorologico degli Stati Uniti e sono l'Organizzazione Meteorologica Mondiale, quindi non ci sono ormai dubbi anche in Italia. Anche in Italia 2015 ormai ha una settimana dalla fine, lo possiamo dichiarare l'anno prossimo. Cioè, per cambiare questo trend ci vorrebbe tipo che andasse sotto zero, meno 70 per i prossimi. Esattamente, dovremmo andare un po' così con l'azoto liquido per gli ultimi 15 giorni dell'anno. Cosa che non accadrà, verosimilmente, cosa che non accadrà. Dopo no, anzi, le previsioni ci dicono che per la prossima settimana, insomma almeno fino a Natale, Santo Stefano, questa alta pressione di Ghisa rimane bloccata qui, non succede nulla. Quest'alta pressione di Ghisa? Perché tecnicamente è piena di polveri questa alta pressione. Beh, per chi sta nella pianura padana sì, perché il nostro bel catino montuoso, insomma, isolato un po' da tutti i lati, fa sì che quando ci sono queste situazioni di alta pressione non c'è vento. In più d'inverno la notte è lunga, quindi l'aria si raffredda a contatto con il suolo e rimane bloccata lì, l'aria fredda è più pesante, più densa, quindi non si muove. Questo significa che tutti i nostri fumi stanno nei primi 100-200 metri al di sopra della superficie e ce li respiriamo tutti. Ci vorrebbero dei grandi ventilatori forse per spingerli. Io intanto me la immagino questa scena. No, è una follia. Anche perché per spingerli dove? Bisogna trovare alto, un posto in alto. Il cielo. Dove vanno normalmente? Perché non è che la cosa diversa è non è che quando piove queste polveri si dematerializzano, semplicemente si diluiscono. Semplicemente. Quindi vanno in giro per l'atmosfera terrestre e continuano poi a fare i loro danni a lungo termine. Poi non ci sono solo le polveri, evidentemente c'è tutto un altro cocktail di inquinanti, di cui poi anche quelli che cambiano il clima, per esempio l'anidride carbonica che non vediamo, che non sentiamo perché non ha odore, non è particolarmente tossica per noi a queste concentrazioni, però poi è quella che cambia il clima, quindi tutto quello che buttiamo nell'atmosfera alla fine qualche cosa fa. Ritorna in un modo... L'atmosfera è molto sottile, per quello che riguarda insomma le attività umane e la meteorologia stiamo parlando di una quindicina di chilometri di aria sopra di noi. Ma invece per quanto riguarda proprio queste polveri, no? Per quanto riguarda invece queste polveri che proprio ci opprimono anche banalmente a livello di respiro dell'aria ogni minuto nelle città, in particolare della pianura padana, ma non solo. Ricordiamo chi sono i principali responsabili, anche in ordine diciamo di gravità, riscaldamento, traffico? Ma sicuramente c'è qualche pari merito un po' tra tutti, ormai le grandi fonti sono il traffico automobilistico, la combustione per il riscaldamento domestico, ormai di industriale c'è piuttosto poco, insomma ormai le grandi industrie che inquinavano negli anni 70-80 sono finite in Cina. Ma infatti forse la mia domanda stupida, ma teoricamente parlando di Milano ma di tanti altri centri, essendo che le fabbriche sono chiuse, non dovrebbe essere migliorata l'area? Perché invece è peggiorata l'area chiudendo quello che pensavamo che fosse uno dei motivi principali? È cambiato il tipo di inquinamento, l'inquinamento degli anni 70 non c'è più e con questo è andato anche via un po' di nebbia, c'è meno nebbia perché proprio i tipi di inquinanti sono mutati, ma abbiamo per esempio più automobili in transito, siamo molto più numerosi in termini di persone, è aumentata la popolazione e quindi comunque tutto quello che facciamo e che usa energia fossile alla fine... inquina. Anche non fossile, perché anche il fumo della legna, per esempio, inquina, accendersi la stufa o il caminetto, produce tutto. Sì, non ci pensa nessuno, sembra una cosa molto naturale, molto naif, che non fa male, invece fa male anche quello. Anche quello, cioè, fa, produce noi, delle piccole emissioni. Cioè, se noi le case, tutte le case le riscaldassimo solamente a legna, avremmo comunque un... Avremmo comunque un'atmosfera irrespirabile. Ah. Insomma, ci sono anche oggi delle ottime stufe a legna nuove che hanno delle bassissime emissioni, non producono fumi come quelle vecchie. Però insomma è sempre la quantità, la quantità in un piccolo ambiente come la Pianura Padana, alla fine 15 milioni di persone che scatano in macchina, bruciano in casa, e alla fine è tutta questa. Ma adesso che si torna a parlare di stop alle automobili, naturalmente come ogni inverno, anche perché insomma in alcune città non, le polveri sono veramente esplose, serve a qualcosa? A quanto secondo te? A me sembra che serva piuttosto poco. Servirebbe invece dare una svolta fondamentale a come ci muoviamo, quindi io credo che il telelavoro sia la vera soluzione, cioè diminuire le nostre necessità di viaggio, ci formicoliamo un po' troppo per niente, si può ridurre moltissimo oggi con i mezzi telematici. E poi, cioè di lavorare da casa. Elettrica, per esempio, io ce l'ho. Per le piccole distanze come la città, e siamo proprio in città dove il problema esplode per la grande concentrazione di traffico, l'auto elettrica andrebbe benissimo. Io ci faccio 100 km con una carica più che sufficiente per fare il classico tragitto pendolari casa ufficio. Beh, non sono pochi, certo. E inoltre la carico pure con l'energia dei pannelli fotovoltaici. In questo periodo che c'è sempre il sole, è magnifico. Io vado all'energia solare. Quanto ci vuole a ricaricarla per poi poter fare 100 km? Ma dipende dal tipo di auto. Comunque diciamo che con una presa domestica 4-5 ore si carica la macchina per 100 km. Però devi avere un kilowattora più alto di quello normale. No, questo con il... Con un normale contratto elettrico? Sì, normale contratto elettrico. Se invece uno ha un contratto maggiorato e un dispositivo apposta per la carica rapida, allora fa anche prima. Carica anche in mezz'ora, però diciamo questi non ci sono, sarebbero le famose colonnine che dovremmo trovare nei luoghi di carica. Ma che non ci sono, che però. Non ci sono. No, ce ne sono pochissime. Qua là in giro, vicino a casa mia a Milano ci sono, in Bergognone, ma e invece l'auto elettrica ce l'hai tu perché sei Luca Mercalli o si trova in commercio tranquillamente? No, sono andato da un concessionario e l'ho comprata 4 anni fa ormai, ci ho fatto 50.000 km già. Però è ibrida, un po' benzina, un po'. No, un'elettrica pura, totalmente elettrica. Una Peugeot Ion, quindi un'auto semplicemente sul mercato. E costa tanto? E la uso con grande soddisfazione, ha un difetto. Sì? D'inverno non posso accendere il riscaldamento, devo girare con i guanti e il cappello. Perché se uso il riscaldamento faccio molti meno chilometri. Non è che non ha riscaldamento, tu scegli di non usare il riscaldamento perché preferisci arrivare alla meta. O stai al caldo o ti muovi praticamente. Poi, se vuoi, calcoli bene i tuoi chilometri e ne devi fare solo 50 invece di 100, puoi anche mangiare 50 per il comfort. Ma quanto costa questa automobile? Ma adesso ce ne sono di tanti tipi in giro, comunque diciamo che l'ordine dei 25.000 euro. È una macchina quindi che ha segmento medio, potremmo paragonarlo come prezzo, ma segmento basso come prestazioni, ovvio. Cioè io ho dovuto fare la scelta di prendermi una macchina che mi dà le prestazioni proprio di una piccola utilitaria e che però costa di più. Devo dire che però pian piano mi sto riguadagnando quello che ho speso prima, perché non pago lo gasolio, non pago benzina e quindi sul lungo ovviamente in un momento come questo di crisi e di mancanza di liquidità, comunque chiedere a una famiglia 25.000 euro per avere una macchina elettrica che magari non è la macchina. Intanto vi direi di guardare in giro quanti SUV da 250 cavalli circa, certo. E poi cominciamo a parlare. Giustissimo. Anche questo è vero. I baracconi lì costano dai 50 ai 100.000 euro. Giustissimo. Cominciamo a dire, se ognuno di quelli fosse un'autovettura elettrica, già un pezzo d'Italia non farebbe fumo. Facciamo una piccola da dire, ottimo. Scendere, ci sono gli incentivi, ci sono le cose che dovremmo fare con la politica e che non vengono fatte. Ne parliamo tra un attimo, Luca, se puoi restare ancora con noi, perché dobbiamo fare le informazioni sul traffico. Appunto. Poi vogliamo appunto anche fare un piccolo bilancio con te su COP21, visto che insomma ce l'abbiamo alle spalle, e cerchiamo un po' di decifrare quello che è stato deciso a Parigi. Tra un attimo. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Eccoci qua di nuovo in compagnia di Luca Mercalli. Tra poco, ascoltatori, vi ridaremo la parola all'800 24 00 24. Luca, che voto daresti da 0 a 10 a COP21, come si è chiuso il grande, diciamo, vertice sul clima di Parigi? Io darei un 6 meno meno, nel senso che la sufficienza la do, perché dal punto di vista del negoziato, del mettere d'accordo questo litigiosissimo condominio di 7 miliardi di persone, 196 governi, è stato certamente un grande risultato diplomatico. Quindi ci dobbiamo rallegare sul piano degli affari degli uomini. L'insufficienza viene se il nostro rapporto va con la fisica del clima. Lì quella non ci fa sconti. Non è sta ad aspettare le nostre decisioni, e da quel punto di vista lì l'accordo è ancora troppo debole, troppo lento, non produce risultati incisivi e in breve tempo, e quindi il clima nel frattempo fa quello che vuole, cioè continua a cambiare in relazione a quello che noi ci buttiamo dentro. Ricordo che la concentrazione di CO2 in atmosfera ha raggiunto 400 parti per milione. Questo numero è l'esame del sangue dell'atmosfera e dice come avere il colesterolo a 400 invece che a 200. Noi siamo dove questo? Dove? In tutto il mondo, a livello globale. Cioè l'anidride carbonica è concentrata a questo livello, 4 volte 400, tanto? No, 400 parti per milione. Sì? Vuol dire, la norma, diciamo, doveva essere 290. Quindi quasi il doppio. Beh sì, 110 in più, 30% in più del livello naturale, e questo riscalda l'atmosfera, più ne mettiamo più farà caldo. Parigi dice cerchiamo di emettere CO2 nei prossimi anni da petrolio, carbone e gas per rimanere al massimo entro 2 gradi in più da qui al 2100. Se invece non facciamo niente si va anche a 5 gradi in più, che è catastrofico. Già il 2 gradi per ora Parigi scrive sulla carta, vogliamo raggiungerlo ma non ce la fa. Con le promesse di tutti i paesi di riduzione in ciascun paese, ciascuno secondo le sue modalità, perché ognuno ha avuto la libertà di proporre la propria ricetta, la propria dieta, si arriva a 2,7. Ma come mai non si riesce poi mai a fare passi in avanti davvero? Cioè, perché nessuno poi può dire apertamente o teoricamente, astrattamente, di essere contro, diciamo, l'ambiente, perché contro il clima, no? Cioè, a parole sono tutti. Poi però cos'è che frena veramente? Frenano i soldi, come sempre. Cioè, alla fine il concetto è il petrolio è lì sottoterra e non bisogna fare più o meno niente per tirarlo su. Insomma, ci sono i costi di estrazione, ma poi è un prodotto che è già fatto ed è lì. E invece tirar fuori le energie rinnovabili bisogna usare prima di tutto tanto cervello, tanto studio, tanta ricerca, perché siamo appena all'inizio, e poi sono più costose. Allora ecco che di nuovo interviene la politica. Se una cosa ci fa male gli devo mettere una tassa sopra per ripagare di più i danni che fa a noi e al futuro. Se i danni sono catastrofici e molto grandi la devo tassare al punto da rendere assolutamente convenienti le altre forme che oggi chiamiamo più care e più alternative, che devono diventare le principali. Questo è il succo del discorso e nessuno lo vuole fare in maniera cogente e rapida, e quindi c'è questo lasciar passare anni nella speranza che niente, che la malattia peggiori, perché insomma, questa COP si chiama COP21, perché ce ne sono state 20 precedenti. Esatto, e soprattutto da quello che abbiamo capito in questa COP21 sono state fatte delle promesse ma nulla più, ovvero non sono stati approvati i controlli per verificare se uno le promesse le mantiene, e nemmeno le multe, e nemmeno i controlli, sono state sostanzialmente approvate le promesse. Quindi un 6 meno meno sulla fiducia, direi. Sì, direi di sì. Però il messaggio importante che secondo me arriva invece a tutti i cittadini del mondo è: guardate che il problema è grave ed esiste, se no non sarebbero stati lì per 13 giorni e per il 21esimo anno a discuterne della sua gravità. Cerchiamo anche di darci da fare come singoli, come cittadini, non aspettiamo che siano sempre solo le leggi, c'è una trasformazione in atto che si può fare, ci vuole tempo, cominciamola e corriamo. Sono molto d'accordo e se posso dire, ho la sensazione che la famosa questione delle domeniche a piedi sia un po' in questa direzione. Siamo tutti d'accordo che probabilmente non siano realmente utili, ma servono a sensibilizzare, esatto, su una questione. Perché, esatto, uno improvvisamente dice: come mai oggi non posso andare con la macchina? Perché se andiamo avanti così non va bene. Quindi in qualche modo ci si dà la sveglia, siamo tutti d'accordo che non è così che si risolve il problema. Non è che con una domenica a piedi il giorno dopo si respira tutti meglio, però perlomeno sappiamo tutti che non possiamo andare avanti così come stiamo andando, giusto? Perfetto, diamogli quel voto simbolico lì. Esatto. Ma un'ultima curiosità, Luca: gli alberi servono per trattenere le polveri sottili, cioè non la CO2, si sa. Trattenere no, anzi, poveracci, vengono ricoperti anche sì. loro. E quindi sostanzialmente gli alberi in città servono perché hanno una funzione di purificazione un po' di produzione di ossigeno quando hanno le foglie. Per rinfrescare quello, sì. Fanno poco. E prevalentemente ci servono d'estate per rinfrescare l'aria quando ci sono le ondate di caldo. Però gli alberi smog, servono sempre, in ogni caso. Almeno si mangiano CO2, quello sì. Quello sì. Ti riporto una domanda brevissima da un SMS che chiede: ma ci hanno fatto cambiare auto almeno 5 volte per inquinare meno e alla fine siamo come prima. Come mai? Vabbè, non siamo come prima. Intanto è vero che inquiniamo meno. Non c'è alcun dubbio che oggi le auto rispetto a 30 anni fa inquinano di meno. Però ne usiamo sempre di più. Se facciamo il conto dei chilometri percorsi, del tipo di automobili, è certamente che alla fine il bilancio di materia, cioè la quantità di benzina e di gasolio che bruciamo, è quella che conta, non è? Poi certo. Siamo tutti felici che un'auto Euro 5 consumi molto meglio della Euro 0. E poi ci sono una quantità di emissioni che non può essere ridotta, cioè alla fine la CO2 per esempio è il terminale chimico della reazione, non la puoi togliere, quella è, esce e basta, puoi solo consumare un po' di meno, anche guidando con un certo criterio. Si può risparmiare non solo col motore Euro 5, ma anche col piedino dell'acceleratore. Benissimo, grazie Luca. L'hai fatto l'albero di Natale, l'albero vero o l'albero finto? Ma non ho fatto l'albero finto perché, insomma, almeno così riciclo, è sempre lo stesso da 20 anni. È vero che di plastica, però non ne ho segato uno nuovo e cerco di tenerlo bene in modo che... Siamo della stessa scuola. Per ora siamo tutti di questa scuola. Grazie, ciao Luca. Grazie, buon sabato. Grazie davvero. Andiamo con Camillo che chiama da Cosenza prima di andare alla pausa. Un po' di ascoltatori, va? Camillo, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Su cosa chiamava Camillo? Sugli alberi di Natale, perché ho sentito prima in trasmissione il sindaco di Este. Sì. Il quale diceva che aveva destinato un'area comunale per piantare su quest'area gli alberi di Natale una volta utilizzati dopo le feste. Sì. Ora, se in prima istanza questa operazione può apparire lodevole, no? Sostanzialmente è un'operazione ecologicamente poco corretta e quindi sostanzialmente inutile, e spiego il perché. Ora, normalmente gli alberi di Natale che vengono utilizzati dalle famiglie sono abeti rossi, no? Cioè l'apice eccelsa. Però non sono rossi. Si chiamano abeti rossi. È il tipo, è il tipo. Che non vanno bene in pianura, questa è la questione. È un albero che in natura vive almeno al di sopra dei 1000 metri sul livello del mare. Este mi pare che sia un comune che sia proprio sul livello del mare. E quindi lei dice non vanno messi in pianura. Ma l'ha detto lo stesso sindaco. Non solo, ma sono piante stressate. Già hanno subito il primo stress quando sono state divelte, perché sono state coltivate appositamente per essere alberi di Natale. No, ma Camillo, ma sicuramente... Però, scusi, il problema è che i consumatori li comprano comunque questi alberi, anche se il sindaco non li mettesse a dimora nei giardini comunali, li comprerebbero comunque e verrebbero buttati negli autogrill, quindi comunque lui tenta di recuperarli. Se non sono corretti nella zona giusta è un soccorso, è un ricovero. Gli abbiamo detto noi stessi di ricoverarli lì per un periodo e quando ci saranno i fondi di spostarli in alta montagna, però ovviamente tutto questo ha un costo probabilmente troppo elevato. Camillo, non so se è soddisfatto dalla nostra risposta. Comunque grazie. Vabbè, insomma, no, ma la sua obiezione è lecita, no, per no, del cielo. L'ha fatta poi, lo stesso sindaco, esatto, l'obiezione. Uno potrebbe dire, ma allora il comune non dovrebbe spendere soldi per piantare degli alberi sapendo che non sono piantati dove dovrebbero stare. Però lì ci si addentra in un, come dire, in un di più che forse è da vedere. In certe poi zone bisogna fare l'ulivo di Natale e a quel punto poi si pianta l'ulivo, non so, in Liguria per esempio. Paolo da Prato, buongiorno. Sì, buongiorno a voi. Buongiorno. Beh, niente, io c'ho una cosa carina, si può fare, mi occupo di biciclette elettriche, sono un appassionato di biciclette, ho conosciuto questa azienda che fabbrica biciclette elettriche e vi posso dire che sono vantaggiosissime, io la sto utilizzando proprio come mezzo di trasporto. Però la bicicletta normale non inquina, quella normale. La bicicletta normale non inquina, ma avendo... utilizzando invece una bicicletta elettrica dove si possono fare anche 70-100 km, sì, finalmente con le nostre, poi se mi permetterete di fare la sigla del nome vi ringrazio, noi siamo una piccola azienda artigiana italiana. Ma è sua l'azienda, l'azienda è sua? No, non è, io ci lavoro, non è proprio mia, è un'azienda torinese, sì, la posso dire il nome? Me lo consentite? Sì, ma sì, vuole, lo dica. Sì, assolutamente. Grazie, Move Your Life. Bene. La bicicletta si chiama Move Your Life, UMB3, sufficiente scrivere UMB3 su Google e vengono fuori le nostre biciclette. Va bene, va bene. Avete anche un claim pubblicitario? A questo punto diciamo tutto. Beh, ripeto, noi ci siamo, è 5 anni che produciamo questi, sì, e troviamo molte difficoltà ancora perché siamo una piccola azienda, abbiamo delle grosse prospettive in un mercato che non c'è, ma io adesso volevo dare un consiglio. Vada. Questo, l'utilizzo di questo mezzo, specialmente per persone che fanno brevi tratti, ripeto, si fanno anche 70-80 km spendendo massimo 10-15 centesimi di energia. Perciò si può risparmiare, la possono utilizzare tutti perché possono andare bene per qualsiasi... La cosa importante è avere anche la possibilità di avere piste ciclabili, per esempio noi che fra Prato e Cantagallo abbiamo una pista ciclabile. Se è elettrica non potrà andare sulla pista ciclabile. La bicicletta elettrica è una bicicletta normale, non è che è una bicicletta a pedalata assistita, va bene? Sì. Che uno ha la possibilità sia di avere la possibilità della bicicletta muscolare, perché contiene all'interno una batteria e un motore che aiuta ad avere, sì, la possibilità. Però ha ragione Carlo Paolo, secondo me, perché se uno innesta il motorino in quel momento lì fa, come dire, anche una concorrenza sleale, una fonte ciclista che è lì che pedala sulla bella pista ciclabile, poi passa quello col motorino e questo diventa quasi uno scooter. Vabbè, qui ci sa se a livello di codice della strada questa cosa è regolamentata. No, probabilmente ci stava dicendo, domanda, giustamente, lavorando lui con le biciclette elettriche, ci stava dicendo che la bicicletta elettrica è parificata a una bicicletta, mi Paolo, sembra. Paolo, è così, è ancora in onda? Sì, esatto, la bicicletta elettrica è parificata. È parificata, poi io vi posso mandare del materiale se volete anche intervistarvi con me, il titolare, vi daremo tutti, vabbè, i consigli. Volentieri. Tutto questo magari ci sentiamo in un'altra sede, non in diretta. Grazie Paolo, l'anno prossimo, che tra l'altro è tra poco. Grazie mille. Ci fermiamo, torniamo tra pochissimo, ma nessuno che chiama per giocare con noi, noi volevamo fornire valide giustificazioni per uscire da una situazione di impasse, di difficoltà, un po' come è successo a Maria Elena Boschi che a proposito del padre ha detto, beh, insomma, faceva 5 km a piedi per andare a scuola, come può uno così avere truffato i risparmiatori? E invece gli ascoltatori, si vede, non ha... Ci sono enormi truffatori che fanno anche 20 km a piedi. Vabbè, insomma, tra poco. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Three, it's a magic number. Yes it is, it's a magic number. Because 2 times 3 is 6, and 3 times 6 is 18, and the 18th letter in the alphabet is yeah, we got 3 R's we're gonna talk about today. We gotta learn to reduce, reuse, recycle. Reduce, Oh, c'è una industria, un settore dell'economia che non conosce crisi, anzi, che continua a crescere. Insomma, in un periodo del genere ci attacchiamo a tutto. E dici qual è che vogliamo subito investire? Tutti lì ad aspettare. È l'industria del riciclo degli imballaggi, che nel 2014 ha raggiunto il 66% in crescita, per l'appunto. E in collegamento con noi c'è il presidente di Fise Unire, Anselmo Calò. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. L'associazione che raggruppa chi? Tutti gli imprenditori, le imprese che lavorano in questo settore? È così? Sì, diciamo che noi siamo organizzati su filiere, sì? Quindi ci sono le varie filiere del riciclo, soprattutto degli imballaggi, ma in generale di tutte le filiere del riciclo, che raggruppano varie aziende, siamo circa 300 aziende, non sono tutte le aziende del settore, ma sono tutte le aziende, diciamo, leader del settore. Ma sentiamo uno strano rumore, è dentro un imballaggio? No, io sono con una cuffia, non so se la cosa è meglio o peggio. Secondo me sarebbe meglio se si fermasse e parlasse meglio? Direttamente al telefono. Sì, sì, è così, è molto meglio. Bene, allora è meglio così. Ottimo, perfetto. Ottimo, fuori dall'imballaggio. Allora, ho provato con una cuffia. 300 imprese, quanti dipendenti? Più o meno. Diciamo che i dipendenti saranno intorno ai 5.000. E parliamo del settore degli imballaggi, ma non solo. Vogliamo fare qualche esempio? Carta, vetro, cartoni, polistirolo, plastica, alluminio. Di che cosa stiamo parlando? Tutto quello che lei ha detto. Allora, le filiere dell'imballaggio sono la carta, l'acciaio, l'alluminio, il legno, il vetro e la plastica. Sono tutte filiere. I produttori di imballaggi, di materiali fatti con questi prodotti, sono raggruppati in consorzi e si assumono la responsabilità di recuperare dal mercato, una volta che il prodotto viene espulso, gettato, smaltito, sì. E smaltito è un'altra cosa. Viene venduto viene gettato nella raccolta differenziata. Sì. La raccolta differenziata serve proprio a questo, a differenziare i vari materiali e reinserirli attraverso un trattamento nel ciclo produttivo, cioè l'acciaio ritorna nel ciclo dell'acciaio, la plastica ritorna nel ciclo della... Pronto? Sì, sentiamo. Stiamo ascoltando. A proposito dell'acciaio, perché questa è una cosa importante. Per esempio, è vero che ad alimentare l'industria stessa dell'acciaio sono proprio i rottami, il ferro vecchio, è diventato... Nel caso italiano esclusivamente i rottami. Nel nostro rapporto noi dimostriamo che la maggior parte dell'acciaio che va a alimentare le nostre siderurgie viene da rifiuti di rottami dall'estero, quindi non soltanto rottami prodotti nel nostro paese, ma anche rottami prodotti in altri paesi che alimentano la nostra siderurgia. In pratica noi compriamo rottami dall'estero, diciamo. Esattamente. Una sintesi un po' con una battuta. Ma quindi questi sono i settori, e questa crescita che voi avete registrato con questo vostro rapporto, dove ci porta, diciamo, in previsione? No? Crescita, un settore in crescita, un settore in sviluppo. La crescita è determinata dal fatto che una gran parte di questi rifiuti, prima, parliamo già di 10 anni fa, finiva in discarica. Le nostre imprese sono quelle che si sono messe in testa di prendere questi materiali, trattarli e reimmetterli nel ciclo produttivo. Per cui fanno quella che si chiama New Economy, cioè un'economia nuova rispetto a quella tradizionale. L'economia l'economia circolare, no? Dove l'economia i materiali circolano. È un motto che sta uscendo negli ultimi anni, nel senso che significa che nulla viene espulso dal mercato, ma tutto viene reimmesso, nel senso di chiudere un ciclo io faccio un imballaggio di metallo, lo recupero, faccio rottame di metallo che rientra nel ciclo produttivo e farà di nuovo un imballaggio di metallo o qualche altra cosa di metallo. Sì. Ma questa voi, è l'economia circolare. Voi, diciamo che lavorate nel settore del riciclo degli imballaggi, vi parlate con quelli che li producono gli imballaggi? Perché a volte sì, sembra parlare. Che gli imballaggi siano fatti proprio per non essere scomponibili, no? Ci sono pezzi attaccati, plastica attaccata al ferro. Ci sono persone che studiano, che sono ancora lì, che cercano di togliere. Chi volesse fare la raccolta differenziata seria di un imballaggio a volte deve arrendersi. Guardi, questo era più vero in passato. È vero, adesso è vero. Adesso c'è una maggiore attenzione al fare imballaggi monomateriali o facilmente scomponibili, ma è anche vero che ci sono delle imprese nostre che riescono loro poi a scomporre. Faccio l'esempio del Tetra Pak, che tutti quanti lo conosciamo perché lo usiamo, certo, per i succhi di frutta o per il latte. Sembrerebbe un prodotto che non è cartone e non è plastica, ma in realtà se raccolto separatamente ci sono delle industrie che riescono a separare la plastica e il cartone del Tetra Pak. Quindi l'importante non è avere degli imballaggi monomateriali, l'importante è avere delle imprese che sappiano trattare quell'imballaggio. Ma quindi noi il Tetra Pak dove dobbiamo buttarlo? Lo stavo per chiedere io. Dunque il Tetra Pak per ora va nella carta e poi dalla carta viene recuperato. Ma anche il Tetra Pak usato del succo di frutta? Quello, assolutamente sì. Parliamo di imballaggi usati. Quindi ma va sciacquato? Nelle raccolte differenziate si dice che sarebbe opportuno che i contenitori prima di essere gettati fossero lavati. Ah, perfetto, perfetto. È che non si sa mai, perché poi uno c'è la scoria di albicocca. Una sciacquatina si può dare, non è un grosso problema. Perché la carta quando la si ricicla. Questo vale anche per i contenitori di plastica, i contenitori di alluminio. Sì, cioè, sì, ma insomma una sciacquata si può dare velocemente, non è un grosso problema. Senta, le bottiglie di vetro del pomodoro possono essere sciacquate prima di essere buttate. Vogliamo dire anche una cosa per quanto riguarda la professionalità e il lavoro? Ci sono sbocchi, cioè, perché uno magari pensa al riciclaggio degli imballaggi e pensa soltanto a gente che sta magari, che ne so, con delle tute in mezzo all'immondizia, e non è un lavoro che può essere più di tanto attrattivo. Invece questa filiera ha tante professionalità anche per studenti che vogliono laurearsi, che ne so, in ingegneria. Ci sono possibilità, quali? Allora, innanzitutto è vero che bisogna ancora metterci le mani, ma è vero pure che la maggior parte dei sistemi di selezione sono meccanizzati, quindi l'uomo aiuta la macchina a separare, però c'è una macchina che sta riesce a separare. Questa è la prima cosa. La seconda, effettivamente senza uno sbocco non ha senso fare raccolta di materiali. Quindi una delle cose necessarie è che il materiale, una volta raccolto, trovi una introduzione nel mercato. Le faccio un esempio. Fino a poco tempo fa la plastica e i nuovi prodotti in plastica venivano fatti solo da plastica vergine, quella che si fa dal petrolio. Da alcuni anni gli stessi produttori di questi manufatti hanno capito che è più interessante, anche dal punto di vista economico e anche dal punto di vista fisico, fare una miscela tra plastica rigenerata e plastica vergine. E questo significa ampliare i nostri mercati di sbocco. È evidente che noi però per fare questo dobbiamo garantire all'industria manufatturiera dei flussi continui e quindi essere abbastanza capaci di raccogliere la plastica dal sistema della raccolta differenziata. Bene. Insomma, noi ci rallegriamo per questo segno più, che vuol dire sia che insomma un maggiore rispetto dell'ambiente, sia anche un settore economico che ha ampi margini di sviluppo. Grazie a Anselmo Calò, presidente di Fiseunire di Confindustria. Grazie, grazie. Buona giornata. Grazie altrettanto. Insomma, stavo dicendo buon imballaggio, buon imballaggio così, a tutti. No, perché è un settore veramente interessante, in crescita, insomma, e non bisogna pensare solo all'aspetto, come diceva Calò, di manovalanza. Sicuramente ci sono dietro anche delle professionalità, dei centri di ricerca. Ne abbiamo parlato tante volte anche con Rossano Ercolini, no? Per esempio, di come a Capannori c'è proprio un laboratorio che studia gli imballaggi e poi si mette in contatto con le aziende produttrici di questi imballaggi per studiare nuove tecniche, nuove tecnologie, per la sinergia perfetta. E quindi è proprio una vera... che io che produco te lo produco, esatto, già che tu poi dopo lo smaltisci in maniera più semplice e meno costosa, una vera e propria filiera. Ci fermiamo per il traffico, torniamo tra un attimo. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Sei tu la mia città, sei tu la mia città che mi spaventa quando è sera, e mi addormenta la mattina e mi ricorda di essere tanti, uno solo in mezzo a tanti, quante voglia di sentire, addosso il brivido degli altri, perché tu sei la città, sei tu la mia città. Che aprono le gambe agli sconosciuti, e che se sono poche di donne coi fucili appesi, le fabbriche sono vecchi indiani che fanno segni, il fumo porta via con sé gli ultimi avanzi, nascondimi dagli altri, son troppo comodi i tuoi denti, e sputami poi fuori quando stenderai i tuoi panni, e lavami nel fiume se vorrai ancora indossarmi, e rimboccami le maniche quando pioverà dai muri, e soffiami sul mondo come quasi fossi vento. Sei tu la mia città. Anche noi abbiamo la nostra filiera, sai, perché abbiamo appena parlato con il responsabile delle imprese che operano nel settore degli imballaggi aderente a Confindustria. Adesso abbiamo un rappresentante degli amministratori, dei sindaci, dei, insomma, degli assessori, che tra l'altro ha scritto un libro che si chiama I rifiuti non esistono, quindi siamo proprio la nostra filiera in bolla. Ciao Marco Boschini. Ciao a te e a tutti gli ascoltatori. Marco, buongiorno. Coordinatore dell'Associazione dei Comuni Virtuosi, che insomma, di cui tante volte abbiamo parlato per le vostre iniziative. Siamo dei fan. Grazie, troppo gentile. Abbiamo appena sentito, non so se hai sentito l'intervista con il rappresentante dell'industria degli imballaggi, per commentare questo dato positivo della crescita del settore del riciclo degli imballaggi, più 66%. Da amministratore, da ex assessore e da rappresentante di un'associazione di comuni, cosa manca ancora per far decollare davvero in Italia questo settore, Marco, secondo te? Ma io penso che manchi una strategia complessiva nazionale che vada nella direzione innanzitutto della riduzione dei rifiuti, che è quello che ci chiede l'Europa da sempre, nell'ambito, nell'alveo dell'economia circolare di cui tutti parlano, ma che poi si fa fatica a vedere all'atto pratico gli atti concreti. E per quanto riguarda il riciclo, c'è una disparità ancora troppo grande tra comune e comune. Negli 8.000 comuni italiani c'è di tutto, c'è il meglio e c'è il peggio. Ci sono quelli bravissimi e quelli scarsi. E quelli poco bravi, quindi purtroppo dovremmo cercare di livellarsi al meglio. Quelli meno bravi spesso sono i comuni più grandi anche. Sì, molto spesso danni. Sì, anche se... Anche perché è più difficile forse. Sì, in teoria sì, in pratica finalmente da un paio d'anni a questa parte anche le città di medio e grande dimensione stanno su alcuni settori facendo bene. Penso ad esempio alla raccolta porta a porta dell'umido in una cittadina come Milano, quindi... Certo, cittadina. Esatto, molto vero. Si dimostra che se si fa lì bene si può fare dappertutto. Perché pochi sanno, per esempio, che il livello di raccolta differenziata di alcune città italiane, come per esempio Milano, è più alto di molte altre capitali europee, Parigi, Londra, Madrid. Adesso cito a memoria, non vorrei sbagliarmi, ma di queste tre città sono sicuro. Però è bene ricordarlo, perché parliamo sempre di noi come se fossimo l'ultima ruota del carro, la pecora nera, il bruttonatroccolo, e invece tante volte una città come Milano, in questo questi anni, merito di questa giunta, ma sono cose che sono partite anche da prima, non è un giudizio politico che si vuole dare, è proprio un giudizio di merito. Marco, però ti abbiamo chiamato perché ci devi dare una notizia. I comuni virtuosi, che noi, di cui abbiamo parlato tante volte, che abbiamo conosciuto nel loro splendore, adesso si aprono anche ai cittadini, perché voi chiedete una mano proprio alle singole persone per fare un salto di qualità. Sì, abbiamo lanciato proprio in questi giorni, due giorni fa, il tesseramento per i soci, per i cittadini, quindi per il singolo cittadino, l'associazione, il comitato che in questi anni ci ha affiancato, e noi con loro abbiamo condiviso battaglie sia per la denuncia di cose che non funzionano, ma soprattutto per raccontare e dare visibilità e forza a esperienze concrete. L'idea del tesseramento è, da una parte, avere un minimo di riscontro anche economico, che poi va a finanziare tutta l'attività che cerchiamo di fare, che è prettamente culturale, ma soprattutto di trovare nei territori che ancora non sono virtuosi delle sentinelle, non so come dire, dei cittadini che abbiano voglia di mettersi in gioco a favore del, non tanto dell'associazione quanto delle buone pratiche e del tema dell'ambiente, di cui tanto si è parlato in queste ultime settimane. Ecco, una cosa che a me piace molto di voi comuni virtuosi è questa: siccome in Italia non c'è una vera e propria scuola per diventare assessori, sindaci, per diventare politici, ma nemmeno per diventare virtuosi. Per diventare virtuosi si improvvisa un po', sono i partiti che se ne occupano. Invece voi avete un'idea che, insomma, la politica è anche una cosa tecnica, bisogna impararla, e fate proprio una scuola di altra amministrazione, la chiamate. Sì, si chiama Scuola di Altra Amministrazione, c'è un sito altraamministrazione.it, tra l'altro, siccome a maggio, tra maggio e giugno circa 1300 comuni andranno all'elezione, abbiamo pensato di fare 5 edizioni straordinarie, la faremo a Milano, a Bologna, a Torino, a Roma e a Caserta, quindi cerchiamo di essere un po' in tutta Italia, e faremo proprio questa giornata formativa replicata nelle 5 località, che si chiama l'ABC del buon amministratore, cioè proprio racconteremo dall'A alla Z che cos'è un comune, quali sono le funzioni di un sindaco, che tipo di problemi incontrerà il consigliere che entrerà in consiglio comunale o che andrà a fare l'assessore, quali potenzialità, quali opportunità, proprio per cercare di trasferire conoscenza. Cioè, noi facciamo questo mestiere ormai da 10 anni e abbiamo messo insieme tutta una serie di progettualità che sono lì pronte per lui. Cioè, facciamo un esempio: il sindaco che è riuscito a cambiare l'illuminazione della città con dei LED molto economici, che ha trovato il finanziamento giusto, la tecnologia giusta, il modo giusto, può dire a un altro che lo deve ancora fare: guarda che noi abbiamo fatto così, così, cos'ha. Mettersi in rete, questa è la strada, e questo si chiama fare, appunto, fare squadra, mettersi in rete, cosa che, ripeto, in Italia è strano perché non c'è una scuola. In Francia c'è una scuola che prepara i politici, in Italia non c'è. Ci siete voi, Marco, e complimenti. Una volta c'era, lo facevano i partiti tradizionali, esatto, adesso non si fa la più scuola delle bottiglie oscure. Farlo noi trasversalmente, nel senso che noi non siamo di parte, cioè siamo dalla parte della sostenibilità, quindi dalla parte di tutti. Va bene, grazie mille. Grazie Marco, grazie. Se vuoi ricordare i contatti, ma l'hai già detto, per questa vostra iniziativa. Per tesserarsi, comunivirtuosi.org, la tessera costa 10 euro, si entra a far parte di una piccola ma combattiva famiglia. Comunità. Grazie, ciao Marco. Grazie mille, ciao, buon sabato. Bene, tutto anche per oggi, noi ci ritroviamo domani mattina alle 8:30, come si può fare. Un ringraziamento ad Andrea Piano, autore insieme a noi del programma, Claudia Schiattone in redazione, Peter Bescapè in regia. E salutiamo noi. Ciao da Carlo Gabardini e Alessio Maurizio. Ciao.